Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, oggi partiamo dall'est Europa, si riaprono infatti i rubinetti del gas tra Russia e Ucraina e si allontana, almeno così pare, l'accordo di associazione tra Kiev e l'Unione Europea, la cui firma è, almeno in teoria, prevista a fine mese nell'occasione del vertice di Vilnius. Mosca e Kiev infatti hanno firmato un accordo sul gas. L'Ucraina in precedenza aveva bloccato le importazioni di metano russo ancora venerdì scorso perché ritiene che il prezzo pagato a Mosca sia troppo alto e perché Gazprom, quindi il produttore russo, premeva perché saldasse un debito da 1,3 miliardi di dollari, minacciando ritorsioni. Insomma, una telefonata ieri tra i vertici ucraini e il presidente del Consiglio Medvedev e poi oggi invece una telefonata ancora tra Viktor Yanukovych e il presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso per discutere la situazione. Di fatto l'Ucraina al centro di una battaglia di interessi tra Mosca e l'Europa. Insomma, sembra che Kiev non sia più così intenzionata a soddisfare quelle richieste avanzate da Bruxelles per l'accordo. Forse la più nota era quella relativa alla liberazione di Yulia Tymoshenko, che era stata posta come condizione dall'UE per il capitolo fine della giustizia selettiva. Partita dunque che cambia improvvisamente linea e che potrebbe avere grosse implicazioni per il bilancio energetico dell'Europa. E ora rimaniamo sui temi della politica internazionale vista da Bruxelles. Oggi si parla di partenariato orientale, di Bosnia, di vicinato meridionale, insomma, punto sulla politica estera europea a Bruxelles. Sentiamo. La Libia torna sul tavolo europeo. Oggi a Bruxelles sarà il tema più spinoso alla riunione dei ministri degli esteri, con Tripoli ormai nel caos. Decine le vittime degli scontri, interrotte a singhiozzo le forniture di gas, in primis all'Italia. Una situazione esplosiva con la città preda dell'incertezza, ancor più che delle milizie. L'ambasciata italiana nella capitale libica ha chiesto ai connazionali residenti a Tripoli di valutare la possibilità di rientrare temporaneamente in Italia. Gli scontri sono i più violenti dalla caduta di Gheddafi nel 2001 in un paese economicamente prostrato, frantumato in una miriade di fazioni armate che il governo centrale non riesce a controllare. Sequestri e detenzioni illegali, uccisioni, torture e stupri sono all'ordine del giorno, come corruzione, saccheggi e traffici di ogni genere. Le proteste di piazza di chi chiede interventi contro l'illegalità si sono trasformate in una strage di civili. L'Unione Europea ha condannato le violenze e difeso il diritto dei libici a manifestare pacificamente, ma numerosi stranieri hanno cominciato a lasciare il paese. La Libia resta un nodo essenziale per l'Europa, per il gas, per gli impegni che i paesi del vecchio continente si sono assunti, perché da qui partono molti immigrati verso le nostre coste. Un dossier, insomma, che oggi Bruxelles non potrà ignorare. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Oltre 50 incontri in tutta Italia, seminari, workshop, eventi B2B organizzati dai partner italiani di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione Europea a supporto della piccola e media impresa, una settimana dedicata appunto alle imprese, agli enti di ricerca, all'innovazione, con approfondimenti sugli strumenti offerti dalla nuova programmazione europea, quella 2014-2020, sui finanziamenti dell'Unione. Sentiamo Francesco Pareti di Eurosportello del Veneto. Questa settimana, cioè la settimana dal 25 al 30 novembre, 50 incontri in 19 regioni d'Italia e 40 città dedicati proprio al Enterprise Europe Network. Daremo assistenza alle aziende spiegando quello che saranno i programmi della futura programmazione 2014-2020 dedicati a loro. Praticamente su base annuale avremo più di 10 miliardi a disposizione per finanziamenti che riguardano la ricerca e l'innovazione, le piccole e medie imprese, l'accesso al credito, l'accesso ai mercati, il trasferimento tecnologico e tante altre cose che la rete offre. Cosa dire della rete, che è in questo momento sicuramente la rete pubblica di assistenza alle piccole e medie imprese più grande del mondo? Voi offrite di fatto una consulenza diretta su quelli che sono i finanziamenti europei. Come si fa? Come fa un piccolo imprenditore a raggiungervi? I fondi europei si rivolgono a imprenditori che hanno anche una capacità di innovare, di crescere, che hanno voglia di stare sul mercato e di affrontare mercati esteri. Quindi, per chi ci ascolta, da dove si comincia? Si va sul sito, per esempio? Si va sul sito, c'è un sito nazionale che è di Enterprise Europe Network Italia, e poi da lì c'è un rimando ai 5 consorzi, perché noi siamo divisi territorialmente in 5 consorzi che coprono delle macro regioni. E siccome il sito è complicato, i dettagli li trovate tra poco su radio24.it. Ora la pagina sportiva, l'appuntamento con l'Europa domani alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.